Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Sappiamo bene, insomma, come una delle sfide cruciali che le città odierne devono affrontare riguarda la mobilità. Attenzione però, perché spesso la tentazione rispetto a questo argomento è di ridurre tutto alla questione dell'impatto ambientale, per esempio alla questione delle polveri sottili di cui si parla quotidianamente, oppure farne esclusivamente un problema di consumi energetici da ridurre. Probabilmente queste problematiche possono trovare una soluzione di tipo squisitamente tecnologico. Pensiamo all'auto elettrica, che laddove circola non produce emissioni di alcun tipo. Però nel momento in cui affrontiamo il tema solo da questa angolatura, qual è il rischio? Che tra qualche anno ci troviamo tutti in coda seduti su un'auto elettrica. Ed è, insomma, legittimo dubitare che questo sia il concetto di intelligenza massimo che siamo in grado di sviluppare. Insomma, affrontare il tema della mobilità vuol dire porsi il problema di come coniugare il diritto alla mobilità con la vivibilità della città stessa. E sembra ormai abbastanza chiaro che con piccoli accorgimenti e piccoli aggiustamenti non si va molto lontano, ma serve un approccio radicale a questo problema. Un punto di vista completamente radicale è certamente quello offerto dallo shared space, ossia spazio condiviso, e quindi una visione, un'interpretazione dello spazio pubblico che è decisamente lontana da quella che siamo abituati a dargli oggi. Per parlare di questo argomento c'è qui seduta di fianco a me Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Buonasera Maurizio, a te e agli ascoltatori. Che probabilmente conoscete, intanto fa parte della redazione News di Radio 24, ma è anche conduttrice di Essere e Avere, e si è già occupata di questo tema. Come mai? Me ne sono occupata perché nella mia trasmissione, che parla appunto di consumi e di nuove tendenze, monitoriamo anche le abitudini emergenti. A questo proposito, appunto, abbiamo monitorato in una delle nostre puntate questo fenomeno pionieristico che è appunto lo shared space. Ecco, proviamo a definirlo un pochettino. Si tratta appunto di un progetto nato negli anni 2000 da un'intuizione geniale di un ingegnere del traffico olandese che si chiama Hans Monderman. È un progetto che rivoluziona totalmente la viabilità urbana, eliminando in pratica dalle strade qualsiasi tipo di segnaletica, vale a dire le strisce pedonali, semafori, marciapiedi. Costringe di fatto automobilisti, ciclisti e pedoni, tutti quelli che fruiscono in maniera diversa dello spazio urbano, a guardarsi negli occhi. A guardarsi negli occhi. E quindi sono tutti responsabilizzati. Ecco, questa cosa può apparire anche un po' sorprendente, possono venire dubbi anche sul fatto che sia una cosa seria. Invece c'è anche un progetto europeo su questo. Assolutamente sì, perché di fatto nelle città dove è stato testato, sperimentato con il valido supporto della Commissione europea, il risultato è stato una diminuzione sensibile degli incidenti. Ecco, uno dei primi luoghi in cui si è fatto questo esperimento è a Bömte in Germania, una cittadina attraversata da un'importante arteria dove si verificava circa un incidente grave a settimana. Nel 2007 hanno eliminato tutta la segnaletica, vigono solo due regole a Bömte: precedenza da destra e 50 all'ora di limite di velocità. Per anni consecutivamente hanno avuto la scomparsa praticamente di qualunque incidente. E so che si sta andando avanti, insomma, questi casi sono stati molto incoraggianti e ci sono notizie anche un po' più fresche, vero? Assolutamente sì. Una delle critiche che viene fatta a questa teoria è il fatto che un conto sia sperimentarla in piccole cittadine con una viabilità piuttosto limitata. Tutt'altro discorso invece quando si tratta di grandi metropoli. Ebbene, a Londra, a tutti gli effetti una grande metropoli, in Kensington High Street la segnaletica è stata ridotta, sono state tolte le barriere di sicurezza per i pedoni, risultato il 60% di incidenti in meno. Questo ha spinto l'amministrazione della capitale della Gran Bretagna proprio lo scorso dicembre ad abolire le strisce pedonali. È stata annunciata questa rivoluzione perché, ricordiamo, le strisce pedonali sono state inventate proprio a Londra negli anni 50, sono state poi esportate in tutto il mondo. Secondo gli esperti di sicurezza, secondo le teorie più innovative, più recenti, si sono in realtà trasformate negli anni in una vera e propria trappola mortale. Lo dicono gli incidenti, perché in qualche modo illudono il pedone di essere protetto e invece gli automobilisti tendono a di ignorarle, ebbene sì, anche nel, anche a Londra, quindi anche abbiamo stabilito che Regno Unito. Invece se uno deve andare in giro avendo la consapevolezza che in qualunque momento una persona gli può attraversare la strada, probabilmente ha un'attenzione maggiore, e il pedone, sapendo di non essere necessariamente al sicuro, anche lui è più attento. Insomma, questo per dire che davvero per affrontare questo tema della mobilità bisogna scrollarsi di dosso un po' di pregiudizi errati. Per esempio, abbandonare l'idea che la pista ciclabile sia il modo migliore per incentivare la mobilità su due ruote. È importante invece permettere alle biciclette di salire sui marciapiedi, di andare in metropolitana, mentre noi tendiamo a percepire tutto questo come disordine. Certo, uno dei valori, dei parametri riconosciuti di questi tempi, dettato anche dalla crisi, è la condivisione. Perché non applicarlo anche alla gestione dello spazio cittadino, responsabilizzandoci tutti quanti? Ovviamente permangono le criticità, è una formula che su un territorio quale quello italiano andrebbe sicuramente testata. Magari, Maurizio, uno spunto per le tue prossime puntate, testare il dibattito. Cancello le strisce pedonali qui davanti al Sole 24. Allora vediamo se succede qualcosa. Grazie Maria Luisa Pezzali. Grazie a te, un saluto a tutti. È tutto, a lunedì.